Grazie. Aspetta che mi prendo io le mie scarpe. Sono servita qualcosa. Sì, acceso, ma non... Anche il suo? Sì, sì. È acceso il tuo? Sì, sì, è acceso. Sì, va. Prova. Pronto. Bassino, vai. Basso. Non c'è problema... Io faccio magari l'introduzione anche... Senta microfono. Prova. Eccoci qua. Sì, funziona. È arrivato. Benissimo, allora iniziamo la nostra serata dedicata alla poesia e ringrazio Cirino Papalardo che è con noi questa sera, personaggio conosciuto che frequenta molto anche le biblioteche, in particolare la nostra biblioteca provinciale, ma soprattutto si fa conoscere perché è una persona molto aperta, molto disponibile, molto curiosa e ha questa passione, capacità, talento di tradurre poi tutto quello che lo emoziona, che lo impressiona con un linguaggio diverso, insomma, puntuale almeno per molti, ed è quello della poesia. Quello che ha colpito tutti noi della biblioteca è proprio questo, che riesce a trasmettere, a trasferire in versi, a trasportare in versi anche degli eventi, arricchendoli con una propria riflessione personale. L'incontro di questa sera fa parte di una serie di incontri che così la biblioteca organizza settimanalmente proprio per facilitare, agevolare, promuovere un incontro tra i lettori o anche i non lettori con autori, autrici, perché non più tardi di oggi abbiamo avuto un incontro e le biblioteche, anche in un piano di sostenibilità, della vita sostenibile, diciamo, sulla Terra, sul nostro pianeta, elaborato nel 2015 dalle Nazioni Unite, la biblioteca diventa il partner ufficiale, indispensabile, per realizzare tutti i 17 obiettivi che dovrebbero permettere la sopravvivenza del genere umano, degli animali, insomma di tutto il nostro sistema diciamo terrestre e planetario. Questo perché le biblioteche sono un punto di aggregazione, un punto di trasmissione di cultura, un punto di socialità, ma un punto anche dove le persone possono manifestare, esprimere i propri talenti, le proprie così anche attitudini, ed è il caso questa sera di avere con noi appunto Cirino Papalardo con le sue poesie, accompagnato da un professionista come Luca Stincotti, che ringrazio di essere qui con noi, giornalista, lavora come caporedattore presso un periodico qui nella nostra provincia di grande diffusione e che stasera ci aiuterà ad accompagnare questa presentazione. Ci sarà con me anche Karin Franchi, una collega della biblioteca provinciale, che insieme a me leggerà alcune di queste poesie. Prima di iniziare con la nostra serata, mi permetto però di ricordarvi che la biblioteca appunto organizza settimanalmente degli incontri. Per avere informazioni basta iscriversi ed è tutto gratuito, quindi riceverete le informazioni anche di quello che noi organizziamo, e domani per esempio avremo in questa sala l'incontro con Filippo Boni, l'autore di un libro, L'ultimo sopravvissuto di Cefalonia, praticamente narra la storia di Bruno Bertoni, un nostro concittadino che al momento ha 101 anni e mezzo, è ancora molto attivo, vivace e soprattutto anche presente di spirito e con una vivida memoria di quello che è stata la sua incredibile avventura. Ne avevamo raccolto le memorie, le avevamo trascritte, ma questo libro, diciamo, lo contestualizza anche da un punto di vista storico, e domani sarà qui con noi l'autore alle ore 18 in questa sala, nonché lo stesso protagonista di questo libro. La Gender Brand Game by lui? Sì, certo, è un fenomeno, lo garantisco, merita di essere conosciuto. Poi lunedì 17 alle ore 18, sempre in questa sala, ci sarà Rita Rusciadelli che presenterà il suo libro Racconta di una madre, quindi ci portiamo su un lato, su un racconto più psicologico del rapporto tra madre e figlia, con un taglio però dedicato anche all'analisi grafologica, infatti è un incontro che abbiamo, che organizzeremo con l'Istituto di Grafologia. Mercoledì, giorno prima di Carnevale, alle ore 16 presso la nostra biblioteca ci sarà anche una presentazione del libro di Giovanni Kezic dal titolo Carnevale, quindi un racconto, una storia di quelli che sono le manifestazioni e le tradizioni carnescialesche in tutto l'arco alpino. E poi potrei andare avanti ancora per mezz'ora, perché ogni giorno ne organizziamo una. E quindi vi invito ad iscrivervi alla biblioteca, così avrete tempestivamente tutte le nostre informazioni, ed è un servizio pubblico che vi invito a sfruttare. Ecco. Lascio la parola ai nostri ospiti, grazie di essere qui con noi. Bene, allora io comincerei magari ringraziando per essere stato coinvolto in questa serata e ringraziando la biblioteca Claudia Augusta, cioè, come diceva giustamente la direttrice, c'è una quantità di proposte, di appuntamenti, di approfondimenti, di incontri con gli autori in questa biblioteca che è veramente impressionante, non c'è nulla di paragonabile, e la cosa interessante è che c'è un'apertura veramente a 360 gradi, si va dai grandissimi autori, dalle memorie storiche eccetera, alla grande letteratura, appunto invece le esperienze di tutti noi, anche dei cittadini che hanno una passione e la esprimono con grande entusiasmo, con grande intensità, ci mettono del loro, producono anche qualcosa senza appoggiarsi a associazioni, senza aspettare di ricevere contributi eccetera. È il caso di Cirino Pappalardo, che io ho conosciuto appunto nella redazione del nostro giornale, l'ho anche intercettato qui in una serata di una specie di contest, di concorso di poesia, molto simpatico e particolare. Esatto, e quindi anche lì ho avuto occasione di sentire qualche suo complimento poetico, e mi è sembrata interessante questa passione che è nata a un certo punto nel suo percorso e che esprime con tutta questa energia, non solo appunto nel proporsi, nel concretizzare, ma anche nel promuoversi, e aspetto molto interessante per me, nel esprimere attraverso la poesia anche riflessioni sull'attualità. Ecco, in questo caso, su questa cosa ci ritroviamo, perché in qualche maniera il lavoro suo, insomma la passione sua, si interseca con il lavoro mio. Io naturalmente scrivo dei testi giornalistici, promuovo la scrittura di testi giornalistici sulla nostra città, sulle nostre città, e lui, diciamo, invece attraverso il suo linguaggio artistico racconta quello che succede, racconta i personaggi, e poi dà un taglio suo di interpretazione in relazione ai valori, allo spessore culturale, alle storie di tutti noi. Ed è molto interessante. Allora, questo libretto è nato in qualche maniera anche un po' rapportandosi con noi dei giornali qui media, io lo ringrazio di questo, in qualche maniera lo teniamo a battesimo questo percorso, ed è una cosa molto simpatica davvero. Io posterei questa presentazione appunto come una sorta di dialogo, il mio mestiere è quello di fare domande, di dare ritmo, e quindi io chiederei appunto a Cirino Pappalardo di raccontarci un po' dove nasce questa passione, dove nascono queste poesie, l'idea di fare questo libro, e naturalmente alterneremo con... Senza microfono non c'è... Rimuovo. No, va bene, adesso parlando così forte mi sente? Sì. Ecco, grazie. Allora io vorrei ringraziare voi che vi siete accorti che finalmente c'è qualcosa che si parla di poesie, perché il mio scopo precipuo è quello di promuovere la poesia. Io mi sono fatto promotore a livello nazionale della poesia. Vi posso dire che queste mie poesie iniziali sono già anche in Austria, perché quando c'è stato Mattarella qua, che ha fatto quella cerimonia al mausoleo lì in Via Resia, io avevo preparato questi libretti che li avevo appena stampati e sono riuscito a consegnarlo a Mattarella, von Bommel, che è il presidente austriaco, Kompatscher e poi il Caramaschi. Questi personaggi hanno già avuto il libretto mio con le poesie. C'era una poesia bellissima che voi forse potete trovare anche lì, perché avevo lasciato io, e in quella poesia io ho trovato quattro versi che sono stati praticamente la mia, il mio marchio di fabbrica. Ecco, adesso però io avrei piacere, siccome io ho continuato a scrivere poesie, l'ultimo ho scritto San Valentino, e quella tramite l'ufficio qua penso che riuscirete ad averla alla fine, perché ne ho fatto alcune copie che posso far avere. Però io per prima cosa devo ringraziare il Mastro Lia, che era presidente degli scrittori, che quando il Mastro Lia ha visto queste mie poesie mi disse: ma perché te li tieni per te? Ma no, ma vieni qua, dai, iscriviti all'associazione. Mi hanno fatto un esame particolare e io sono scrittore dell'associazione scrittori di Bolzano. Ecco, e quando avevo parlato con la dottoressa avevo detto: ma forse la biblioteca qui può lanciare un ramo. Adesso però, siccome nell'associazione, scusatemi, io però se comincio a parlare devo mettere l'orologio qua, perché quando io parlo, quando facevo le assemblee con gli arbitri o con Rainerum, perché Rainerum ha fondato il liceo linguistico, ho fatto tante cose nella mia vita, forse in quel libretto dietro troverete anche un riepilogo totale, quello che avevo fatto con loro ancora nel 2013 quando ho chiuso con l'associazione. Io però volevo semplicemente dire questo. Io volevo iniziare con una poesia che è la poesia che ho scritto per ultimo e vorrei che la leggessero, Dialogare inter nos. Questa è una poesia che io ho apprezzato tantissimo e che mi prometto di fare in un prossimo libretto, perché non vi libererete tanto presto di me. Questa è la prima occasione, ci saranno anche altre occasioni. Prego. Prendo il microfono. No. Dialogare inter nos. Ascoltatela bene. Dialogare farebbe bene al mondo, pensa il cervello svegliandosi un mattino. Però, se tu da solo certo non puoi fare, devi cercare qualcuno con cui parlare. Pensando bene come poter fare senza percorsi esterni, pensa al cuore, lo chiama, è sempre sveglio e con amore gli spiega il suo pensiero con fervore. Ciao, come stai? Disturbo certamente. Per niente, sono sveglio e batto sempre. Lo so, ma i battiti tuoi non devi accelerare. Ti chiedo, sei d'accordo con me a dialogare? Certo, risponde il cuore, sono contento, di tanto in tanto. È buono il tuo intervento. Tu come stai? Chiede al cervello il cuore. Io mi difendo bene con il nostro dottore. Seguendo attentamente i suoi consigli, certo, non troviamo tempo per sbadigli. Ma dimmi un po', che sai della coscienza? Da un po' di tempo se ne sta in dispensa. Si muove poco, sai, dalla sua stanza. Credo che perde spesso la pazienza. Noi che ci diamo da fare tutto il giorno per aiutare e controllare, insieme o a turno. Teniamoci in contatto, notte e giorno. Restiamo attenti e svegli e il nostro corpo ci dispenserà contento il suo soggiorno. Diamogli qualche fastidio, ma non troppo. Però, se sarai stanco e ti dovrai fermare, avvisami per tempo, me ne puoi parlare. Vedremo se è il tempo giusto per lasciare il corpo, che oltretutto ci ha fatto dialogare. Praticamente, visto che il motivo mio principale, oltre alla poesia, è quello del dialogo. Questo è un dialogo che fa nel corpo il cervello che parla col cuore e poi che è la coscienza, perché la coscienza è di solito quella che sappiamo tutti quanti com'è, ognuno ce l'ha, però la utilizza o non la utilizza, lei se ne sta in disparte, però quando vogliamo utilizzarla... Ecco, questa è una poesia che sarà, adesso non ce l'avete perché è una primizia e io questo lo metterò nel prossimo volume. Ecco. Adesso, continuando sulle poesie che ho scritto sul sacro e profano, il sacro e profano è nato praticamente da un problema che ho vissuto, perché in montagna abbiamo la casa Monte San Pietro, c'è Pietralba che è diventato un macello, non si fa più niente. Allora, io ho ispirato dalla Madonna, mi sono messo a scrivere queste poesie. Pensate che ho scritto una poesia, siccome le poesie che io scrivo, dopo quanto le presento, il personaggio che cade sotto le mie grinfie, lui non è ancora caduto, però è lì che ci sta arrivando. La dottoressa ha già avuto un assaggio mio, vero? La dottoressa, assieme a tutte le altre, hanno avuto l'assaggio mio in occasione della bomba, in occasione altro. Comunque, io ho portato il volume, ho 102 poesie che ho scritto. In questi 102 ci sarà un altro volumetto in cui ne metterò una ventina, non di più, però con un argomento un po' che racconta tutte queste cose. Allora, è nato da lì e poi mi sono trovato in una situazione in cui mi venivano, appena c'era un qualcosa che attirava la mia attenzione, allora ci costruivo una poesia e me ne sono venute bellissime. In queste qua io ho una certa predilezione solo per quella preghiera del Papa. Dio ride. Quel Dio ride praticamente mi ha fatto capire che nel mondo si può ridere, si può scherzare, però alla fine bisogna vivere la vita. E in quella poesia io mi sono confessato tutto quello che ho scritto io. Mi sono ritrovato. Ecco, adesso non so quale vogliono leggere, perché credo che alcune di queste poesie sono da leggere. Ma vi dico una cosa io però in particolare. Queste poesie io non è che le ho scritte tutte di getto. Dopo, nel momento in cui mi sono trovato questo, ad esempio ho messo la poesia sulla donna. Sulla donna io l'avevo scritta in occasione di una settimana ad Abano Terme. Eravamo alla Villa Pace e io ho scritto la poesia La donna, che poi penso che potremmo leggere La donna, perché questa qua poesia è una poesia che qualcuno mi ha detto: ma no, ma tu questo non potevi dirlo, non potevi farlo. Ma però dicono che nella poesia, quando si esprimono dei concetti, quei concetti poi lasciano la gente meditare. Per cui su quella poesia io poi ho avuto modo di discutere, siccome sono molto religioso, ho avuto modo di discutere col cardinale Seppe di quella poesia, perché lui tutti gli anni viene a Pietralba, ma è sempre lì a Pietralba. Allora una volta me lo sono peccato, dico: senta, questa poesia mi hanno detto che no, forse questo no. Allora io ho fatto un mio ragionamento che credo che da cattolico non dovrei fare, però io potrei farlo anche stasera accanto a voi. Adesso, se vogliamo leggere questa poesia, La donna, se no la facciamo leggere a una donna? Certo, ma sono loro le mie. La donna. Quando ha creato l'uomo, il Padre Eterno si accorse che aveva esagerato. Come potrò ovviare io dall'interno? Gli staccherò una costa dal costato. Nacque così da noi la cara donna, gioia, delizia, amore ed altro ancora. Forse non c'era ancora la minigonna, si stava bene senza, tutto fuori. Quando si sono accorti dell'inghippo, ecco, viene fuori l'estro della donna. No, non procederò con uno scippo, né mi nascondo dietro la colonna. Nacque così la storia, e oggi il mondo festeggia sempre ciò che ci ha creato, la lieta vita assieme a una donna con tutto quel che questo ha comportato. Viviamo insieme questa nostra vita, che bene o male deve essere vissuta. Allora, il discorso che è nato qui e il mio dubbio, che con mia moglie ho litigato un sacco di volte: ma no, questo non puoi dire, questo non è vero. Io la poesia l'ho creata così ed è rimasta così. Cioè, quando praticamente l'uomo ha creato, quando è stato creato l'uomo, il padre mi ha detto: ma è troppo bello questo, come faccio a farlo vivere da solo? Allora cosa facciamo? Gli stacco una costola e così Infatti, se voi avete capito il verso, nacque da noi la cara donna, nacque da noi, perché poi in un'altra poesia ho scritto, no, ma comunque questa è la Bibbia, questo ce l'hanno spiegato così, però adesso in un'altra poesia io ho scritto poi, trattando sempre l'argomento, che la donna dice all'uomo, guarda che mi ha creato per te, ha creato me per te, quindi tu non puoi andare a cercare un'altra donna, perché sono io, devi fare l'amore con me, devi vivere con me, perché le altre donne non c'entrano niente, quelle non ti daranno mai la felicità. E questo è vero. Allora in questo discorso mi sono fatto un ragionamento mio, ho parlato col vescovo, perché anche il vescovo, se avete visto quei preti che sono lì, poi qualcuno mi ha fatto anche degli apprezzamenti, degli elogi. Io in questa poesia ci ho visto qualcosa, dico, ma anche il padre Tene ha sbagliato. Adesso voi non processatemi, però quello che io dico, io ho fatto questo ragionamento e l'ho fatto a questi preti, a questi grandiosi. Mi dico, sentite, allora il Padre Eterno ha creato tutto bello, ha detto, ah, questo è bello, questo, tutto tuo, tutto, tu lo puoi godere come vuoi, però quest'albero qua, non toccarlo, mi raccomando, questo me lo devi lasciare. Allora sto andando e vivo in quel bellissimo paradiso terrestre che noi forse ci sogniamo e forse lo raggiungeremo chissà quanto. Allora, non guardavo questo albero con un po' di... Ma caspita, ma perché non lo posso prendere io questo albero? Allora, arriva la donna, ecco viene fuori l'estro della donna. La donna gli ha detto, ma no, vada, lui ti ha detto che non vuoi mangiare quello, perché diventi come lui. Allora è inutile che... Mangiamolo tranquillamente, vedrai che diventa più bello. L'hanno mangiato. Dopo che l'hanno mangiato, si sono nascosti, erano nudi, si sono nascosti. Quando arriva il Padre Eterno, ah, cosa avete fatto? L'uomo, no, è colpa della donna, è stata lei che mi ha fatto fare, è stata lei, io non c'entro niente, poi non c'entro niente. Tu l'hai mangiato, l'hai gustato, ti andava bene, sì. Allora, io dico, da lì è nato il nostro peccato originale e ce lo siamo portato tutta la vita. Quello ce lo siamo portato tutta la vita. Allora io dico, se il Padre Eterno non ha sbagliato, mi spieghi perché quando andiamo a comprare qualcosa ci dicono, ci danno le istruzioni per l'uso. Allora, qui non puoi fare questo, qui non puoi fare quello. Lui le istruzioni per l'uso non le ha date. Allora, il fatto che non ha dato le istruzioni per l'uso, questo è un ragionamento mio che io adesso voglio condividere con tutti voi, perché vedo che siete pochi, ma siete i buoni e mi state ascoltando. Allora, dico io, se il Padre Eterno diceva, ma guarda che questa roba, io ti dico che non la puoi mangiare perché ci sono delle conseguenze, e le spiegava. Allora, quando succedeva questo, loro non andavano lì a nascondere, dicevano, abbiamo sbagliato. Lui cosa ha fatto? Ha rimediato. E come ha rimediato? Ha creato quello che io chiamo la banca del perdono. La confessione, se questo fatto loro lo sapevano, non si nascondevano mica, no, non si nascondevano. Dicevano, guardi, abbiamo sbagliato, io vabbè, confessato e tutto finito lì. È un ragionamento mio, scusatemi, però lo volevo condividere con voi. E ho messo in crisi sia Seppe, sia Musere, però un po' più un amico, ma sì, siamo stati creati liberi, ma liberi in quel momento non eravamo liberi, perché se eravamo liberi, quello che è stato fatto veniva fatto, giustiziato e basta, no? Cirino, scusa, c'hai qui che ti ascolta, la moglie, la no. Sorella, la cugina. No, no. Perdone. No, no, ma comunque scusate questo mio intervento. Adesso lascio la parola poi. No. No, io volevo chiedere a Cirino quando è nata questa passione per la poesia. Cioè, c'è stato un momento in cui è sgorgata, è sbocciata questa cosa? Sì, oppure... sì, l'occasione è stata proprio due anni fa che ho cominciato a Pietralba, no? come dicevo prima. Poi mi sono permesso di fare la poesia, addirittura quella poesia che voi trovate nel libretto è un'Ave Maria che io volevo che diventasse un'Ave Maria musicale. Ho parlato con parecchi musicisti del conservatorio qua, ma forse non si può. Sì, mi ha detto, se la dai a me me la porta a Napoli. E dico, no, cosa c'è da Napoli? Ecco, però ho cominciato lì, poi ci sono state tutta una serie di concomitanze che mi hanno portato a scrivere delle poesie, per cui mi venivano semplici, facili. Ad esempio quella della bomba, quando hanno fatto la bomba, che poi in foto anche loro, quella della bomba, insomma, è nata così. Quella della... Le facciamo sentire? Del tram. Ce l'ha quella della bomba lì nella raccolta? Quella nella raccolta. Nella raccolta c'ero forse lì nell'altro raccolto, comunque no, non ce l'ho qua. Non c'è. C'è l'oro lì nel contenitore grande, però se volete possiamo prendere. No, adesso possiamo un po', perché c'ho il grandissimo contenitore dove ci sono le mie poesie tutte, che sono 102. E comunque le poesie sono sempre legate a un avvenimento o a un personaggio. Ecco, molti poeti invece fanno delle cose più astratte, su dei sentimenti, eccetera, quindi sì, volano alti rispetto alle cose concrete. Invece le poesie di Cirino Pappalardo spesso sono legate a, addirittura all'attualità. Sì, e possono essere appunto dimostrate. Lì c'è l'indice... praticamente questo, quando ero studente alle magistrali, eravamo in classe mista e queste ragazzine mi dicevano, ah, mi scrive una poesia, e scrivevo un sacco di poesie. Poi quando sono venuto a Bolzano sono sparito, non c'è più niente. Una poesia storica che ho è forse questa qua, la prima, che ho scritto quando c'era, che si è sposata la mia nipote, è quella, eccola qua. Questa l'ho scritta mentre eravamo a pranzo nel ristorante. Lucia e Massimo. E questa è rimasta storica. Allora, 26 ottobre del 2008. Questa non ne ho trovata in giro, ma tutte le altre sono sparite. Quindi questa fa parte delle poesie precedenti, diciamo, rispetto a quest'ultimo. Questo che vuole che la leggiamo? Prego. 2008. Eravamo lì sul lungomare di Aci Trezze, che c'era quel grande albergo, e io guardando il mare mi sono ispirato. A Lucia e Massimo, ecco arrivato il giorno tanto atteso e tanta gioia splende in voi dagli occhi. Questo bel giorno avrà poi tanto peso e scorderete il mondo dei balocchi. Il mondo è tutto vostro, vi appartiene. Vivetelo ogni giorno a piene mani, l'immenso amore vostro vi sostiene, senza paura alcuna del domani. Siamo felici tutti insieme a voi e ritorniamo indietro coi ricordi. Certo, diventa bello anche per noi, anche se a volte mancano gli accordi. La vostra giovinezza e il vostro amore, tutto supererà anche il dolore. Questa nel 2008. Io sono del 38, quindi immaginate quanti anni avevo, e questa adesso quando l'ho trovata dico, oh, finalmente ho trovato qualcosa. Ma tutto il resto invece adesso sono tutte poesie che ho scritto anche, ma in quel libretto ci sono delle poesie molto profonde. E io vorrei richiamare, se volete leggere, quella della bomba. Sì, perché quella era un po'... Che è recente nella memoria della città, insomma, tra bombe e dinamiti per disgaggiare le pareti, siamo sempre lì. La bomba. Se non ti sposta neanche una bomba, questo proverbio può essere smentito, dovendo artifici molto in gamba mettere in sicurezza questa bomba. I sacrifici richiesti sono da sopportare per lontana insicurezza farla brillare. Tutti coloro che vivono nei dintorni collaborino felici per i loro soggiorni. Anche la Biblioteca Civica Italiana dovrà seguire gli ordini impartiti. Monica, Fabio, Carina e Valeria fanno capire che è una cosa seria e lo confermano Patrick e Paola dicendo a tutti: abbandoniamo l'aula, siate obbedienti, il sindaco ci tiene, è anche per noi, per il nostro bene. Quando ritornerete in biblioteca ritroverete con noi la vostra bottega. Ecco, questa l'ho scritta in quell'occasione. Quindi anche la citazione della biblioteca. ho avuto modo di chiedere i nomi, ho chiesto i nomi di tutte le persone che lavoravano là dentro, sono riuscito a mettere in rima. Perché il fatto è questo, no? Io ho letto poesie di Scalfari, di grandi personaggi, di Pirandello, però sono poesie che io richiamo prose poetiche, ma non poesie, perché la vera poesia deve avere una rima, perché la sostanza sicuramente sì, l'argomento che tratta. Di Scalfari ho letto che lui mi dice: no, io non scrivo romanzi perché i romanzi praticamente si cominciano a leggere e dopo non si finiscono mai. Uno comincia a leggere un romanzo, bello, bello, bello, li compra e poi a un certo momento legge 10 pagine dopo no. Va a vedere magari alla fine se è un romanzo che prevede una fine particolare e si legge, però quei romanzi rimangono così. Le poesie invece, da un momento che sono poesie, nel momento in cui ti serve la legge ti lascia qualcosa. Ecco perché io dico che ognuno di noi ha un ancolo poetico. Io vi sfido, vi dico questo: provate a scrivere una poesia di 4 versi, non di più, 4, solo 4. Cercate una rima, trovate un argomento, ci riuscirete. Perché nel mondo in cui viviamo c'è un casino immenso, ma 10 minuti a casa nostra li troviamo, no? Quando siamo nel bagno magari che facciamo... La poesia è come una medicina. No, poi ecco, quello che ho scritto io, la poesia è medicina di ogni vita, tutti quanti siamo in grado di farla, di proporla... E non imporla, ma proporla, io ve la propongo. Provate voi in questi giorni che andate a casa, vedete che poi mi darete ragione. Mi darete ragione perché ognuno di voi ha un argomento particolare, parlate di qualsiasi cosa. Si riesce a costruire una poesia. Adesso taccio. È anche un allenamento, no? Si ripescano dei termini nelle parole. Sì, certo. Dopo, fra tutti i fastidi che si hanno nel giorno di dover fare lei specialmente, che è sempre lì in giro, una cosa questa, una cosa l'altra, io non la vedo, la vedo mai quando arrivo qua, ma una volta là, dopo qua, dopo su, dopo giù. E qui con il fatto che c'è il centro Trevi, anche biblioteca civica, lei praticamente fa parte di tutto l'edificio e gira a destra e a sinistra, però i 10 minuti li trovate, io vi sfido, lei professore con cui io ho attaccato la lite con lui, ecco, perché è il nuovo spazio, è il nuovo spazio che si propone di sviluppare la cultura, però non entriamo in quell'argomento, comunque l'abbiamo già chiarito, io ho scritto tutte le lettere, ho avuto le risposte e andiamo avanti tranquilli. Ecco, adesso prego. Allora, diceva giustamente lei, è un esercizio per la mente che fa bene anche e soprattutto quando si comincia ad avere una certa età e poi si scava a fondo nel proprio animo e si riescono in qualche maniera a condensare delle cose molto personali, praticamente. Sì. E queste cose sono veramente personali e uniche di ognuno di noi. La sollecitazione sua quindi non è solo a fare un percorso che fa bene al cuore e alla mente, ma anche veramente a esprimere qualcosa di unico e personale. E questo secondo ti me è una cosa molto meglio, importante. Ti fa vivere meglio, sicuro. Calmante meglio della camomilla. Riesce a trovare una vena artistica, no? Infatti, Infatti questo è molto importante. No, adesso io, ad esempio, io ero capace, magari mi davano un argomento e in un'ora io facevo una poesia. Mi davano un argomento e facevo una poesia. Quando andavo a scuola, che poi avevo la ragazzina con cui avevo un po' di affiatamento in più. Poi addirittura c'erano storielle, corrispondenza con la Spagna, con un ragazzo lei, una ragazza io, mandavamo in giro. La giovinezza. Quindi risale E mi dispiace che quelle poesie. Mi dispiace che quelle poesie, perché lì è nata la mia passione, che poi ho dovuto trascurare con tutto, fare il militare. Prima ho dovuto fare la scuola e cominciare in ritardo. Se poi leggete magari in quel libro che alla fine c'è quel riassunto che avevo fatto quando avevo fatto con qui Bolzano l'intervista e tutto il resto. Cioè la mia vita è stata molto, ma molto lunga. Adesso da quando ho cominciato a fare amministratore di condomini, l'ho preso sul serio, avevo 43 condomini e riuscivo a farli da solo, mia moglie ogni tanto mi dava una mano, però e naturalmente adesso nel 2013 quando ho detto lascio tutto, li ho lasciati in buone mani perché ho detto io vi dico se volete ve ne propongo qualcuno, perché naturalmente visto che l'ho fatto seriamente e adesso quando vado in giro conosco mezza Bolzano, perché tra assicurazione, tra Rainer, ho fondato il liceo linguistico Rainer, io qui a Bolzano ho fatto tante differenti cose e quindi il discorso è questo, però nella vita a un certo momento dico adesso basta, vi arrangiate. Dei 40 condomini che avevo sono riuscito a darne quasi tutti con quello che ho suggerito io, per cui adesso quando vado in giro mi dicono meno male che c'è andato quello, e invece è stata una storiella che potete leggere lì in quell'intervista che hanno fatto le primarie dell'amministratore. Vabbè, comunque adesso credo che sia andata fuori tema. No, poi comunque ha fatto anche l'arbitro di calcio. Quindi faceva l'arbitro nelle riunioni di condominio e poi anche l'arbitro di calcio. Sì, poi è appassionato di fiori e piante grasse. E quelle li rubo, addirittura siamo andati in crociera sulla nave della crociera, ho mandato una piante grasse, la vendevo, sempre per mia. Al comune della Sicilia? Sì, al comune di Trecastagni che c'era una bella pianta di fichidindie con i fiori, con i belli frutti, no? Belli, ciaccate, ciaccate. No, però questo non è rubare, questo è cercare di incrementare la natura, spostarla da un posto all'altro. Io sono ragionamenti miei, però io sono tipo molto strano. Infatti mi sono reputato, come mi sono reputato io? Ritengo un frenetico naturale. Frenetico naturale, io ho una frenesia su tutte le cose, discuto, però quello che nella mia vita posso dire di aver fatto tantissime cose, però ho due cruci, ecco perché quando leggete la storia di Dio ride del Papa, troverete quello che io soffro, perché io soffro le ingiustizie, perché quando vedo una cosa, ma dico, ma è possibile che siano cose giuste per tutti? Per lui no, ma no, e non può discutere. Allora se non si riesce a parlare, si rimane in sé, però quando tu incontri quella persona che va a testa bassa, fa finta di non vederti, e dopo se gli dici, ma senti una cosa, ah, io cerco di stare in pace. Come puoi stare in pace se non sei in pace con te stesso? Io ho di questi casi nella mia vita, io ho due gruppi di cose sospese. Lui ne sa qualcosa, il mio caro Edoardo, lui ne sa qualcosa. Quando io faccio le cose benissimo, metto magari invidia ad altre persone, dicono no, no, lo facciamo fuori. Mi fanno fuori. Però dopo quando dico, ma per quale motivo? Non c'è dialogo, no. Ma dico, possibile? Io dico, prima di morire, queste due cose, io vorrei chiarirle, ma trovare una persona che lo scrollo. Dico, lo affrontiamo il problema, ne parliamo? No. Scusate. Leggiamo, però visto che ci stiamo scaldando, Leggiamo la poesia Ignoranza e cattiveria? Ignoranza e cattiveria, anche quella riguarda una specifica persona. Una specifica persona. Carina e gentile. Ecco, prego, prego. Dialogare è parlare ed ascoltare. Se parlo io, prolisso e non ascolto. Riprendo il mio parlare disinvolto, senza trattare l'argomento svolto. Ora, se parliamo solo di parole, il vento le trasporta, certamente. Quando ritorneranno tra certa gente, questa smentisce sempre come vuole. Ecco perché se scrivi, sempre cosciente, sei pronto a dimostrare che le parole, per ciò che scrivi solo attentamente, ognuno trova risposte certe se le vuole. La cattiveria umana non ha limiti, sbagliano tutti quanti, ma non noi. Perché sicuro sei di tue esperienze? Non sei creduto, niente confidenze. Se per dialogare non trovi spazio, le cose vanno a lungo senza sbocchi e con cari e bravi legali, sempre pronti, con tempi lunghi e riti, torneranno i conti? Questo è praticamente un personaggio che ha rovinato tutta una situazione. Perché? Perché si è messo in testa una cosa che non esisteva al mondo. Non esisteva, ma era impossibile. Ma lui, no, ha coinvolto anche altre persone, perché alla fine diceva, ma sì, ma è lo stesso. E allora come si può accettare una situazione del genere? No, purtroppo però il mondo è fatto così e io queste cose non riesco a digerirne, perché non so, mia madre mi ha fatto così e ancora finché il mio cervello continua a funzionare e le cose mi vengono in questo quindi modo. Quindi c'è un grande appello al rispetto e al dialogo, al dialogare sempre. Se bisogna affrontare i problemi sempre, sempre bisogna affrontarli, perché ognuno di noi ha una convinzione. Ma se uno di noi ha una convinzione e la può dimostrare, io tutto quello che ho fatto in tutti i campi, io ho sempre scritto. Per cui quanto si deve affrontare un argomento, le barzellette non servono. Perché io dico, guarda, queste cose sono quelle che abbiamo fatto. Adesso dimmi dove ho sbagliato. E dove tu ritieni di avere ragione, ma con i documenti, ecco perché io scrivo sempre tutto e alla fine non trovo rispondenza negli altri, perché quando uno non può capire, no, dico, è così, basta, però vivono, perché io dico, la coscienza ce l'ha ognuno di noi. Io con la mia coscienza sono a posto, io potrei andare in tutti i posti del mondo oggi come oggi, e quelle due cose che ho ancora in sospeso e ho provato in tutti i modi a vedere di trovare uno spiraglio, non l'ho trovato e non lo troverò. Io penso prima di morire di non riuscire a chiarire queste cose. Sai bene a cosa mi riferisco. Ok, posso, vorrei concludere con chiedendo, lumi meritò una di queste domande della quinta intervista del nostro giornale. Lei ha risposto alla domanda, per un giorno vorrei essere in grado di poter fermare il mondo, è la risposta. Sì. Perché? Perché vorrebbe fermare il mondo? Perché sarebbe importante fermare il mondo? In che senso? Ecco, fermare il mondo sarebbe troppo bello. Fermare il mondo e scendere e riuscire a trovare una strada, questo credo che sia una cosa dal giorno di oggi. Veramente. Perché c'è una corsa impazzita praticamente. Sicuramente si troverebbe una strada, però finché il mondo continua a girare, noi ci troviamo sempre in strade dove non vorremmo andare, ma ci troviamo lì. E cosa possiamo fare, Angelista? Di quello di cui stiamo parlando, sì, io sto parlando di questi argomenti, ci troviamo nel mondo in situazioni che non possiamo risolvere. Adesso se andiamo nel campo della politica possiamo dire le stesse cose, cioè si fanno delle cose non per le persone, non per il mondo, ma si fanno contro la persona. Quindi tutte le cose che vengono fatte sempre contro una. La politica contro Salvini, contro Berlusconi, contro quell'altro, ma non che fanno il bene della gente, no! Si mettono contro fra di loro, facciamo come vogliamo, buttano fumo negli occhi. Ecco, andare a votare significa andare a votare, e io, quella del... forse ci sarà anche lì, quella del tram a Bolzano, che sono stato io quando dovevano discutere la storia del tram, che c'era, che si sono trovati lì all'Alto Adige, il tram a Bolzano, lì c'è l'indice magari. Allora io, visto che c'era sul giornale, si trovano oggi alle 11 all'Alto Adige Faustini e Caramaschi e poi... E allora io dico, adesso vado lì sicuramente, no? Vediamo cosa succede. Sono andato lì, allora arrivo dall'usciere e mi dice, ah no, non si può entrare perché sono solo loro, non si può entrare dentro, no? Ma dico, ma io ho scritto la poesia qua, adesso sicuramente... Sul tram. Allora l'usciere mi dice, ah... Adesso mi dice, l'usciere mi dice, ma guardi, allora le faccio una cortesia, gliela porto dentro, arrivo lì, busso, tuc, tuc, e gli porta la poesia. Allora io, visto che ero lì nell'atrio, tu non c'eri, se non venivo a trovarti magari bevamo qualcosa assieme, aspetto, dico adesso esco, no? Mezzogiorno e un quarto, ecco, dalle 11 sono stato lì, aspettare, esce Faustini, di cosa? Ciao ciao, dico allora la poesia la mette, sì, dobbiamo mettere, ciao ciao ciao, è partito. E adesso la leggiamo con calma. Dico, adesso escono gli altri, adesso escono gli altri. Quando sono uscito c'era quello che era contro, no, come si chiama, Costa. Costa, poi c'era la giornalista e c'era Caramaschi. Allora dico, allora questa poesia com'è andata? Ah, mi dico, no, la poesia è andata bene. Questa la possiamo pubblicare. E vabbè, tutto è finito lì. Un sindaco da sempre illuminato, l'idea del tram convinto ha generato, tenendo conto dei vantaggi, tanti, avvantaggiare tutti, non solo gli abitanti. La nuova idea, così ben concepita, raccoglie consensi ed è ben avviata, ma il tarlo dei no convinto, già presente, cerca proseliti sicuro e non si arrende. Nasce poco convinto un referendum, senza pensare che non è una tantum, necessita che sia raggiunto un quorum, firme raccolte, certo, con auditorium. La storia recente nostra con il referendum ha sempre dato su tutti esiti imprevisti, e se l'esito positivo previsto era da tutti, i no hanno prevalso, come si sono impegnati molti. Ora, se già decisi al referendum andiamo, votiamo convinti se dubbi non abbiamo. L'andarci deve far capire che è cosa giusta il non partecipare, convinti quanto basta. Ma se prevale il no, non siamo contenti. Sicuro che i voti poco convinti furono tanti, ormai dobbiamo capire non serve a niente se ciò che è risultato non vuole la gente. È questo, perché il referendum non si prova, vinciamo. Poi c'erano quelli che si mettevano davanti, no, mi raccomando, io vado lì. E la gente, allora non andare, io dico, perché se vai e non sei convinto, arrivi lì e voti quello che non puoi votare. E poi arriva il risultato. Infatti tutti i referendum che abbiamo avuto a Bolzano hanno fatto tutte la stessa fine, tutti. E allora è inutile buttare soldi inutilmente. Ecco. Concludiamo con una poesia? Un'altra poesia. Adesso finale. Concludiamo con la... Le sardine? Adesso che ce l'ha tutte le pollette di tutti. No, quella di San Valentino. Io volevo concludere con San Valentino, perché questo l'ho scritto su San Valentino, perché me l'ha chiesta espressamente il presidente della parrocchia lì di Tre Santi dove andiamo, perché mi dice, ah, ma io non posso venire, sono in gita con i miei alunni. E allora dico, beh, allora ti faccio una sorpresa. E ho scritto la poesia di San Valentino e ne ho scritte alcune copie che potete avere anche voi stasera questa. Mentre le altre le arriveranno magari col prossimo libro, certo. Perché ormai prima di Natale sicuramente, se sono ancora in vita, vi farò avere anche delle belle notizie, ma comunque devo trovare tutta una serie di argomenti da mettere assieme. perché il sacro e il profano ormai l'abbiamo sviscerato abbastanza. Bene, allora facciamo questa poesia e poi facciamo un bel applauso. Nel mondo c'è qualcosa di divino che arriva puntuale, molto atteso. 14 febbraio ed è San Valentino, di cui gli innamorati fanno buon uso. La Chiesa romana scelse Valentino che subentrasse al pagano Luperco e a soli 21 anni di origine ternano fu consacrato vescovo romano. Donava fiori e rose del suo giardino a giovani che in coppia lui vedeva, li benediceva e a loro stava vicino. A star per sempre insieme li invitava e il mondo col suo amore conquistava e amore a piene mani diffondeva. Ha visto il discorso? Io sono dovuto andare a cercare la storia di San Valentino. Questa storia di San Valentino però non sapevo, ma ci sono rimasto male, perché praticamente questo San Valentino era ateo, no? Poi si è convertito al cattolicesimo e l'hanno fatto vescovo, perché prima c'era Luperco che era il vescovo e poi hanno fatto lui. E poi hanno fatto lui. Dopo però volevano farlo di nuovo convertire al primo suo senso, cioè volevano farlo di nuovo pagano, e lui dice no, ormai sono cattolico e basta. Lo hanno arrestato, lo hanno messo dentro, si è fidanzato con la figlia del carceriere, alla fine lo hanno condannato e lo hanno ucciso. È molto giovanissimo, ha fatto una brutta fine, però ha lasciato nel mondo la gioia dell'amore che c'è anche fra noi vecchi, che ogni tanto pensiamo che siamo innamorati. Ok? Grazie, vi ringrazio. Scusatemi, scusate. Porta il giorno di San Valentino, tutti felici, San Valentino.